Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Spettabile direttore, l'Italia è prima in Europa per debito pubblico. L'Eurostat segnala che nel 2009 è arrivato al 115,8% del prodotto interno lordo. La media dell'Unione Europea è del 73,6. Nella classifica dei paesi più indebitati siamo seguiti dalla Grecia, 115,1%, e dal Belgio, 96,7%. Siamo più indebitati della Grecia. Voglio ricordare che il debito pubblico si può considerare una tassa sul futuro, cioè sulle prossime generazioni. Questo è forse il peccato più grande che dobbiamo imputare alla classe politica degli ultimi 30 anni. Siamo stati e continuiamo ad essere governati da politici irresponsabili, che non hanno avuto il coraggio di far pagare il dovuto agli italiani, per non rischiare di perdere consensi, voti, potere. Hanno lasciato che vivessimo al di sopra delle nostre possibilità. Da decenni la pressione fiscale è inferiore alle spese pubbliche. Bisognava, e bisogna ancora più oggi, eliminare la distanza tra uscite ed entrate. Si poteva e si può fare in 3 modi: tagliando le spese, aumentando le tasse o facendo entrambe le cose per raggiungere il punto di equilibrio, cioè deficit uguale allo 0%. Era stato promesso il raggiungimento della parità di bilancio, cioè deficit zero, nel 2003. L'obiettivo è stato clamorosamente mancato nel 2003 e in tutti gli anni successivi. E così ogni anno chiudiamo sempre il bilancio dello Stato in rosso, anche e soprattutto a causa degli interessi sul debito nel frattempo accumulato, che non riusciamo a pagare e anzi ha ripreso ad aumentare non solo in termini assoluti, ma anche relativi rispetto al PIL. Ogni bambino che nasce in Italia ha già un debito di 30.000 euro. Io credo che ipotecare il futuro sia un grave delitto. Ci vuole un'Italia nuova, con cittadini che abbiano nella mente e nel cuore il valore della responsabilità, con la consapevolezza che questo mondo non è nostro, ma ci è stato affidato dalle generazioni che verranno dopo di noi. Rocco. Gentile Rocco, la sua analisi è precisa e il problema che lei pone è sicuramente il maggiore che l'Italia ha di fronte per i prossimi anni. E il suo richiamo alla responsabilità è altrettanto giustificato quanto doveroso. Non bisogna dimenticare, anche se solo da parziale giustificazione, che negli ultimi 2 anni tutti i paesi hanno aumentato i loro deficit per far fronte alle maggiori spese dovute alla recessione. Ma l'Italia sta un po' meglio degli altri perché ha un alto risparmio privato e quindi una maggiore capacità di gestire il debito pubblico. Tagliare la spesa e aumentare le entrate con la lotta all'evasione resta comunque fondamentale. Ma non bisogna nemmeno dimenticare che sia la destra che la sinistra non hanno realizzato che in minima parte i possibili risparmi nelle spese dello Stato. Che si parli di innalzamento dell'età pensionabile, doveroso dato l'allungamento della vita media, oppure di abolizione della rappresentanza politica delle province, ci sono sempre sindacati o interessi politici che si mettono di traverso. Lo slogan sembra essere uno solo: i risparmi sono indispensabili, basta che spettino agli altri. Egregio signor direttore, la risoluzione della crisi economica della Grecia, dal mio punto di vista, è solo una palestra, un allenamento per l'Unione Europea. Risolvere i problemi del Portogallo sarà poi come fare una partita amichevole. Poi arriveranno le partite del girone eliminatorio, chiamate Spagna, Irlanda e Italia. A quel punto sapremo se l'Europa si è fatta Stato unitario e se potrà competere con il mondo intero. Il clima della partita in Italia è già iniziato a surriscaldarsi, con congruo anticipo dopo che le entrate pubbliche sono state inferiori alle spese al netto degli interessi dell'enorme debito pubblico. Qui da noi si giocherà poi una lunga e dura partita. Agostino. Buongiorno Fabi. Sabato scorso, 1° maggio, ho preso al balzo la bella giornata e sono andato con mio figlio a pescare gli storioni. Sì, ho disertato la piazza, mi volevo isolare e per qualche ora ce l'ho anche fatta. Poi ho cominciato a pensare a tutte le piazze che la televisione ci mostrava, fino a quella di Mosca, dove stavano inquadrando una marea di gente con bandiere rosse e una mega foto trionfante di Lenin. Ecco cosa ci manca di più, ho pensato. Dalla svolta di Achille Occhetto alla Bolognina, i nostri dirigenti non hanno fatto altro che dirci ciò che la sinistra non era più. Ci hanno detto che tutto ciò che era il PCI non faceva più parte della nostra identità. Basta falce e martello, stella rossa, quercia. Si è salvata per ora l'unità, ma non si è salvata quella che una volta era la festa dell'unità e che ora ognuno chiama come vuole. Cari D'Alema, Fassino, Veltroni, Franceschini, chi siamo noi? Come potete pretendere di arrogarvi il 25 aprile, se gli ideali dei partigiani di sinistra li avete rinnegati? Come potete presentarvi agli operai il 1° maggio, né come comunisti, né come cos'altro? Anche i russi hanno abbattuto certi ideali, hanno cambiato nome al loro paese e hanno votato, non so in quanti né quanto liberamente, un oligarca come Putin. Però un minimo di buone radici li hanno mantenute. Noi no. Molti giovani di sinistra leggono Il Fatto Quotidiano, che è apartitico, oppure aderiscono al Popolo Viola, al Movimento di Grillo. Per loro va bene tutto, basta che non appartenga a un partito. Capisco che certi concetti, come quelli che hanno accompagnato la mia infanzia di comunista, erano certamente da rivedere e discutere, ma non credete che tutto questo si sarebbe dovuto fare prima? Prima di iniziare a rinnegare e depennare ideali e feticci, non avreste dovuto forse cercare un nuovo progetto? Il comunismo agli italiani ha fatto solo del bene. Stalin e Pol Pot qui non c'erano. Dei loro giganteschi errori dobbiamo parlarne, ma senza buttare via gli ideali, solo perché facevano capo a loro. Un'identità ci serve, e questa identità ce la danno i contadini che lottavano per le terre, gli operai che si battevano per lavorare in sicurezza e tranquillità, i ragazzi che come me distribuivano l'unità alla domenica mattina, i volontari anziani e giovani alle feste, le associazioni di beneficenza che nascono nei nostri paesi, eccetera. In conclusione, cominciate a dirci chi volete che siamo ora. Almeno possiamo serrare le fila e pensare seriamente se la sinistra vera esista ancora, oppure se non ci sia più nulla da votare e se anche noi dobbiamo aderire a movimenti apolitici, attendendo, credo invano, tempi e idee migliori. Rodesildo. Buongiorno. Avrei solo una domanda. Un ambiente dove il razzismo è così strisciante da non accettare un bambino di colore in adozione, è un ambiente sano per qualsiasi altro bambino? Se il bambino bianco poi dovesse rivelarsi magari omosessuale, in quell'ambiente come crescerebbe? Forse il problema non è il colore della pelle del bambino. Se un tribunale riconosce che un ambiente sociale non è adatto ad un bambino di colore diverso, forse non è adatto a nessun bambino. Vincenzo. Quando si parla di adozione, bisogna avere un minimo di cognizione di causa. Ho adottato mia figlia e sono in attesa di adottare nuovamente. Abito al nord e quindi, secondo quello che ha detto un vostro ascoltatore, sono tra quelli che ostentano l'adozione. Ma tra ostentare ed esserne orgogliosi c'è una grossa differenza e non ne vado orgogliosa per quello che ho fatto io, bensì per quello che ha fatto lei, mia figlia. Mia figlia che nei suoi 5 mesi ha vissuto quello che pochi di noi hanno vissuto nella loro vita intera. Un abbandono, lo strappo dal suo paese, 14 ore di volo per arrivare fin qui, in un paese nuovo, tra le braccia di persone che non conosceva. Credetemi, c'è di cui essere orgogliosi. Un figlio non è un diritto, ma un dono, e in quanto tale, deve essere accettato così come viene. È giusto che non si possa scegliere il colore della pelle. E poi se una coppia asserisce di non volere un figlio nero, che tonalità dobbiamo dare alla parola nero? Moltissime coppie che non accettano un figlio nero si convertirebbero subito ad un bambino mulatto o comunque dalla pelle ambrata. Ho sentito con le mie orecchie persone che hanno detto «nero nero no, ma color Obama andrebbe bene». E allora cosa facciamo? Usiamo una scala di gradazione del nero? È vero. Chi non vuole un figlio nero può sempre rivolgersi direttamente ad associazioni che lavorano solo con paesi dell'est, ma potrebbe anche capitare che si ritrovino ad adottare un bambino di colore abbandonato in un paese dell'est e si ritrovano quindi ad adottare un bambino che non sentiranno mai loro. No, l'adozione è qualcosa che va al di là dei legami di sangue, figuriamoci del colore della pelle. Una coppia che afferma di non volere un bambino nero deve essere fermata molto prima di arrivare in tribunale. Deve essere fermata appena fa una considerazione del genere. Lisa. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.